5 quando il picco massimo. Ok, io stavo usando il Kindle però, oggi sto usando l'Icom. Roberto, come sono, sai il suono di segnale o di radio? Ma guarda, io devo dire che differenza non ne hanno fatto, il segnale più o meno uguale, intorno al 9-10, sì, a parte di Milano non ho fatto grosse differenze, la modulazione non è cambiata quasi niente, almeno non è che mi sono impegnato a stare attento ai passaggi, però a primo acchito mi sembra uguale. Una domanda, quello che avevi prima era il 45 con lo Shure? Ma a me Robè? A te sto dicendo, quello che hai parlato prima, adesso hai cambiato, è l'Icom, quello che avevi prima era il 450. Assolutamente no, da quando sono entrato sto usando sempre le MX80 con l'Icom. Tino ha sentito ieri il, diciamo, quello che abbiamo fatto l'altro giorno io e tu Robè, che mi hai detto di, abbiamo fatto la comparazione tra microfoni. E secondo lui da quello che ha detto adesso, secondo lui è meglio questa qua di radio che quella del diciamo dell'altro giorno che abbiamo fatto assieme. Aspettate, però da promettere che a me piacciono le emulazioni un pochino aggressive, forti, e quell'altra magari era un pochino più rilassante. Perché più forte è questa qua del Kingwood? Sì. Prova ad attaccarla, adesso questa mi sembra più forte, prova ad attaccare l'altro. Ce l'ho spento. Perché facendo faccio un giorno uno, un giorno l'altro. No, ce l'ho spento, anche l'alimentatore spento dell'altro. Non lo so. Riprendilo bene. Ma io ho notato una cosa, ti ho fatto quella domanda proprio interrogativo, perché ho notato una differenza dall'inizio, da quando sei entrato, infatti ho detto ma è cambiato il radio, perché adesso è più squillante di prima, forse come scalda, non lo so, non ho idea, però ho notato una differenza, ma è abbastanza importante anche a orecchio, perché infatti ho detto ma è cambiato il radio rispetto a prima, infatti ho detto che strano, tu hai detto no, sempre la stessa, il segnale non è cambiato niente, però rispetto all'inizio, prima che ci fosse Tino, sembra un'altra radio. No, no, è sempre uguale, è sempre lì, forse aspetta. Allora, porca miseria, sto toccando il cursore, perché forse gli ho messo, ho sollevato il microfono un pochino, allora. Eccola qua, così è lì, così è lì come sono, come poco fatti. Robè, un attimino che devo fare una cosa alla bambina, entro subito. Bellissimo, va benissimo, come ha detto Tino, con le stesse cose che ti ho detto l'altro giorno, questa è più da combattimento, più squillante, e l'altra più salottiera, meglio tutti e due, dipende poi dai gusti e da cosa uno vuol fare, questa spinge un pochettino più in acuti, l'altra invece è un po' più corposa nei bassi, vai Tino. Infatti ho detto, da promettere, bisogna vedere a chi piace, a me piace più questa, per dire, quella che adesso. No, sono belle tutte e due, vanno benissimo. Dammi invece a me un rapporto, Tino, che siamo da moto che non ci sentiamo. Guarda, Roberto, l'avrei detto da subito. Io molte volte sembra che non ci sono in radio, ma ci sono tutti i giorni. Bene o male ascolto sempre, che magari sono impegnato in altre cose, però lo lascio acceso. Va bene Roberto, non ti preoccupare. Ciao, il segnale com'è dalle tue parti? Tu sei quasi 9:20. Quasi 9:10 con picchi, cosa, 9:15. È più o meno uguale, dai. Ok, va alla grande. Questa è la solita tua, Tino, quella che c'era da diversi anni, la radio. Ma guarda, io adesso, vabbè, io ho il 50, il 4:50. Io avevo prima il 4:40. Vabbè, a parte il 4:40, io parlo da qualche anno, cioè almeno 3 o 4 anni questo 4:50, immagino. Qua che mi ricordo io un annetto. Solo un annetto, lo sai, perché ti ricordi che siccome io sono l'altoparlante di quella di linea, tu ci avevi l'altoparlante del 4:40 che era quello scuro, ma eravamo già qualche anno fa che ne avevamo parlato di questa storia. No, io ho sempre il PS430, non l'ho mai cambiato, però è dalla linea 4:40. Appunto, tu c'avevi quello l'altoparlante, però era sul 4:50, mentre io ho l'SP23 che è di linea del 4:50. Vabbè, io ho sia l'alimentatore che ho il PS50 e l'SP430, che è praticamente ho cambiato solo la radio. Tutto il resto è rimasto così, anche perché diciamo che è mezzo imboscato, non si vede. Rimane sotto la sotto un ripiano, quindi no, non mi interessa. Sono entrato, eh? Vai, vai. Sì, non so, metti che se fai un abbinamento di qualche microfono amplificato a quella radio, c'è forte. Cioè questa qua è un microfono originale, questa che sto usando adesso con questo mic originale, è una, diciamo, una modulazione molto, molto fine, proprio zero, zero, zero. Cioè questo microfono qua l'ha cambiata dal giorno alla notte, l'ha cambiata dal giorno alla notte, riprenditi. Guardi, dobbiamo fare come ieri, capito, per fare le prove. Adesso non è il momento, dai. Sono entrato giusto a farmi sentire, a salutarvi, perché è giusto che sia così. Addirittura stavo guardando la televisione, ma non ho voglia di stare lì attaccato al televisore, anzi. Mi stavo preparando per dirvi la verità, ma il rancio per domani, perché domani sono Sella Mosca, quindi devo fare giusto, non ho possibilità di mangiare, tra virgolette, comodo, quindi giusto un panino al volo e non ci vedo più dalla fame. È positivo, uioia, un casotto, è un casotto, adesso anche io domani sono incasinato, anche io domani sono un po' incasinato, stiamo preparando, ma pacari dai, riprenderò bene. Quando è che inizia l'attività, Gabi? Pasquetta o prima di Pasquetta? A Pasqua, a Pasqua a Porto Torres. A Pasqua a Porto Torres, Roberto. Chi c'è a Pasqua? E ancora non è stato divulgato nulla, quindi non posso dire niente. Però c'è se tutto va in porto c'è un grande artista. Un grande artista la fanno la Torre Aragonese, però al momento non posso dire nulla perché ancora non è stato pubblicizzato niente, quindi è giusto la, cioè è giusto sul contratto, però diciamo non si può dire niente. Come non detto, dai. Quindi la Torre Aragonese non a Balai. Vettino, c'è stato un break, se non sbaglio. Avanti il break, mi sembra avanti, avanti. No, segnale ci sei, se 9 più 5, modulazione chiara, non eccellente, ma ti ascolto molto bene, Mirko. Sei in compagnia mia e poi c'è Tino e Gavino. Facciamo di venire avanti prima Tino e poi Gavino. Vai Tino per Mirko D'Alghero. Dai, ok, ciao Mirko, Mirko D'Alghero. Ti ho sentito leggero, io non sono favorevole a Alghero. Purtroppo lo ascolto basso basso, tant'è vero che si quasi un S3, quindi un segnale 3, radio 2. E riesco a toglierti con le pinze. Comunque vai, salutoni Mirko, vai, ti mando avanti Gavino se ti ascolta. Vai Gavino. Buonasera Mirko, no, io non l'ho copiato, vabbè, lo squadro un po' alto, però se mi fa un passaggio mai potrei riuscire a tirarti fuori. Non so se mi copi, buonasera Mirko comunque. Avete parlato in due, non si capiva niente Gavino. Aspetta Mirko, facciamo venire avanti a Gavino, l'hai sovramodulato, vai Gavino. Sì, ciao Mirko, buonasera, ripeto, io non al momento non sono riuscito a tirarti fuori, però se provi a fare un passaggio magari vedo un po' di fare qualcosa. Dai, avanti se mi copi, buonasera di nuovo. Mi sa che non ti ha sentito. Mirko, l'hai ascoltata Gavino? Hai sentito Gavi? Mezzo al QRM ce l'ho, Robè. No, non lo tiro fuori. No, ho detto ti ha sentito bassissimo, proprio non riesci a decifrarlo. No, ci avete lo stesso segnale, vi siete annullati a vicenda, 9, quasi 9 e 10, tutti e due. Come avete parlato, uno non ascoltavo né uno né l'altro. Vabbè, io Alghero ce l'ho di fronte, riesco a parlare molto bene, riesco a aprire, sono molto aperto quella lì. Mirko, mi dispiace, cerca di sistemarla un po' questa antenna, come avevi detto, così avremo piacere di farti ascoltare anche agli altri, perché tante volte entri, però chi ti ascoltava ero solo io e forse qualche altro magari più favorevole. Ok, ti rilancio di nuovo Mirko e poi faremo rigirare a Tino e a Gavino. Ok, vai Tino. Aspetta, stavo facendo una prova, non so se è a Tino. Aspetta un attimino, vabbè. Dimmi come sta uscendo questa radio. No, sta uscendo molto forte, il segnale si è salito a 9,25. Vabbè. Però non so se la radio ha cambiato o meno. Mirko, mi ascolti? Sì. Mi dai un segnale radio Santiago, grazie. È già tanto. C'è un residuo di alternata leggero, tino leggermente saturo, non troppo, però poco di leggermente saturazione. Sì, lo so, sta andando, ma anche perché ho il microfono sopra l'amplificatore, aspetta. Poi l'ho appena acceso, lo so, io dico, ma fuori te, allora lo sto pilotando con il 450, figurati. No, già si sente, poi come muovevi si abbassava questo residuo di alternata. Ok, e Gavino li prendi, chissà Gavino quanto gli arrivi, 9.800. Io ti ho attenuato qui perché a fondo scala avevi la lancetta, il limitatore nella lancetta, quindi ho attenuato. Adesso lo tolgo, era più giù al 9,60, assurdo. bello. Lo stai portando lo 4,50 adesso qui quello? Sì, ma ti ripeto, è la prima volta che lo metto. E che pilotaggio di farlo per quello di Latino? Di accordatore, perché... sotto controllo, perché questo è il suo pompo, quindi devo abbassare. Ma che pilotaggio li stai dando, Tino? Allora, diciamo che posso anche abbassare, aspetta un attimino. Sto abbassando, siamo a 10 watt, però aspetta. Non so se è passato il segnale, comunque adesso 10 watt. Appena un peluzzino, poco meno di 9,25, sì. Non ti chiedo quanto è, ma penso abbastanza, doppia cifra. Sì, dai, aspetta, posso fare di meglio, eh? Si è migliorato. Sì, è salito oltre 9,25 ed è tantissimo, cioè da 9,15 a salire oltre 9,25, 10 punti è spaventoso. Qua sei attenuato 9,40 picchi positivity. Va bene, quindi sta andando. Davvero sta andando. Mirko, ha aumentato a te lì a Alghero? No, ti ha detto se è migliorato il segnale, Tino. Nulla mi stai dicendo, sentirlo più vuol dire tanto, Ce la faccio arrivare almeno a 7 lì ad Alghero? Peccato, pensavo 3,5, ok. Ma scusa, il 757 stai usando tu, Rubico? L'altro che cosa era? Come cosa non è male quella radio, soprattutto in banda laterale, ce l'ho avuto anche io, anche se l'ho data via per diversi motivi, dai. Ok, com'è invece il mio rapporto ad Alghero? Il mio segnale ad Alghero com'è? Che siamo un po' che non ci sentiamo con quell'antenna. Già, 8,5 di segnale radio 5, così. Facciamo prendere Gavino che è un po' in parcheggio, vai Gavino. Sì, ma che antenna sta usando Mirko? Una V invertita adesso. Ecca, è fitta. Riprendi. Ma non vorrei mettere, l'ho detto già l'altra volta, un'antenna più performante. Tra l'altro Mirko è passato, nei piani alti, è passato da amatore da qualche mese. Sì, tutto quello che vuoi, però. Diciamo sono comparazioni, una V invertita con una verticale non puoi fare. E certo che sì, infatti, anche a me mi dà 8,5 lui di rapporto, lui è 9,10 da me, quasi 9,10 da. Pensa che qua la metto robe se 9,20 a picchi positivi. alle 10:27:075. Beh, 9:30 picchi positivi, dai. Però se trovo ore 6:09:20, ma stiamo uscendo tutti e due una verticale. No, ma io poi non spingo, a me non piace, guarda, sto uscendo con 20 watt qua, magari con i picchiari però auto di più, però di portante fissa sono 20 watt. Neanche io, a me non mi piace che... Io sto uscendo con 3 watt e mezza, infatti è mezza al QRM. Vabbè dai, era giusto, giusto una prova, eh. Aspetta, vabbè, si è scaldato. La corrente come stai a contatto elettrico? C'è molto coltivatore il motto. Come stai a contatto elettrico? Oltre anch'io, ma però aspetta che spiego tutto. Oh, io ho l'FL2100 che tira 800 watt continui di amplificatore, non l'ho mai usato. Si usa un robe, non lo lasciare posteggiato. Adesso io, come inizio la stagione, devo montare un tralicetto, dai, e lì proverò a fare qualcosa di più importante, dai. Io non ne ho mai usato, ma l'ho dato tanti anni fa un amico, un amplificatore, un 600 watt valvolare, una bestia enorme, mai provato, l'ho solo acceso per vedere come funzionava, e non l'ho mai provato, e lo usa, non mi è mai piaciuto, io sono di quelli che conta l'antenna, poi se non arrivi, pazienza. È vero, è vero. Vediamo se mi ascolta ora Mirko, ho abbassato un po', eh. Mirko, mi ascolti ancora? Mirko? Ha detto Tino, se l'hai ascoltato, ti ha abbassato un po' la potenza. Se non ha parlato, come hai fatto ad ascoltare? Guarda un po', vedi un po' se mi ascolti, vai Mirko. Come lo fa a dire che mi ascolta, se non mi sente, non mi risponde? Tino, Mirko, l'ha ascoltato a Tino. Spagnolo. Ti puoi immaginare. Ti ha immaginato, Tino. Sì, ma infatti ho tolto tutto, adesso sono andato con neanche 30 watt, figurati. No, ma va bene così, non c'è problema. Vabbè, dai, io vi saluto, Gavì, cosa facciamo? Rimandiamo? Tanto adesso sei in compagnia, quindi mi sembra anche brutto fare quelle cose là. Come vuoi, sì, anche io domani notte sono... Tanto domani a casa sono da solo che è la festa della donna e quindi escono mamma e figlia, possiamo fare quello che vuoi, non è un problema. Anche quando rientri, domani io sarò a casa da solo fino alle 11:30 e le signore vanno a divertirci. Oh Tino, dimmi Roberto, fate pure, tanto io sto per chiudere, non ho problemi da parte mia, Gavi idem, fate quello che dovete fare senza nessun problema e senza nessun ritegno, come si dice, dai, tanto io vado a riposarmi un pochettino che domani è una giornata un po' tosta, dai, proseguite, fate le prove che dovete fare, poi magari se coincide un'altra volta mi fate sentire le prestazioni, vai di nuovo Tino. Vabbè, dai, arrivate 10 minuti, me lo sposto un attimino, che devo andare così a capiccolino, poi al limite proviamo. Vabbè dai, allora io vi saluto, iniziamo dal più lontano, da Mirko, in quel di Alghero. Ciao Mirko, ben sentito dopo tanto, sistemati l'antenna così si possono ascoltare anche l'altro. Ciao Gavrino, anche a te idem, compattate, sempre ben sentito, un piacere ascoltarti, la stessa cosa per Tino. Saluto anche gli eventuali amici qua in ascolto, canale 10. Ciao ciao a tutti, QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao Robbe, ciao, ci si ascolta, domani al limite fate sentire così mi dai conferma se riusciamo a fare una cosa. Mi sto spostando un attimino, Robbe. Sì, Tino, anch'io un attimino di sotto, che controllo un attimino fuori i cani. Ciao Robbe, grazie per questo, sentiamo tutto alle prossime. Buona giornata per domani. Buonanotte, ciao Mirko se mi copi, ma non credo. E ce la presentiamo alle prossime. Tino, anche io 5 minuti e sono di nuovo in radio.